sera, ai mamma mia, era già sera, ed eri lì che mi guardavi. Oh, wow, wow, come eri bella, la figlia della bidella, e mi dicevo, eccola, eccola quella, e dovevo farmi avanti. Oh, wow, wow, wow, wow, e invece mamma da, è proprio una brutta zona, un saccio in chili, ha pigliato Tony, però lo dico che sei proprio bella. Sempre hai estima, hai estima. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Amore mio, sono solo anch'io dentro questa piazza. Non lasciarmi, no, no, non lasciarmi, no. Wow, wow, wow, wow, wow. Sei tamarella, sei proprio bella, bella. Sei la figlia della bidella, sei la mia stella. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Amore mio, sono solo anch'io dentro questa piazza. Non lasciarmi, no, no, non lasciarmi, no. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Sei tamarella, sei. Sembravi proprio una stella, e te lo dico, e dentro la mia mente pensavo, è proprio quella. Wow, wow, wow, wow, wow. Mi sono fatta avanti, e tu mi hai guardato, e poi mi ha detto, ma chi cazzo vuoi mia? Baba, dimmi via. Io non ci credevo, eri nervosa, mentre invece era il tuo stile, da tamarella, oh, tamarella mia, non me ne vado via, perché adesso sei solo, solo mia, e te lo dico per rifarmi il fico, non sei tamarella, ma sei proprio bella, amore mio, sono solo. Sei proprio bella, bella. Sei la figlia della bidella. Sei la mia stella. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Amore mio, e mi chiamo Paolozzo, e dentro a Siviglia mi faccio un gattuzzo, dentro a Ruffre Pappe mi faccio un malandrino, mi piglia confidenza, ma non sono di Cosenza. E stamattina mi hai fregato una lasagna, mamma mi ha detto state quattro così così, picchi a lasagna, ti a pietra a rapanza, io le soliate mi hai fregato malipanza. Solo a te, Ia, a chi te, come diceva Lino Baffi. Un, due, tre. Un, due, tre. Che me ne frega a me, sinceramente. Che poi sono pure disgraziati. Che se vi acceppa uno a uno, veramente, vi spacca tutti quanti la noce del capicollo. Ma non me ne dite l'ingoronetto.